Buonasera, grazie di essere venuti. Sì, chiaramente non sono Gianmarco, però insomma, vabbè, posso, ho partecipato anch'io a questa vicenda. Lui ha tradotto questo libro nel 2015, nell'estate del 2015, era qui, adesso a Milano. L'abbiamo concordato molto, con molto anticipo la presentazione di questo libro, perché il Centro Trevi ha un'attività vulcanica e quindi bisognava... Cioè, un anno fa avevamo deciso di... per cui pensava di essere libero, non lo è stato, però ricordo che quando lo stava traducendo, lui traduceva, io facevo un'altra cosa, e poi la sera con molto... proprio molto compreso, molto con molto interesse, mi raccontava le vicende di quest'uomo che sembrava che l'avesse conosciuto lì in carne e ossa, no? Dio mio, come andrà a finire adesso, c'è questa nuova associazione, riuscirà? E ho detto, caspita, questo devo leggermelo anch'io, me lo sono letto in italiano ovviamente, poi gli ho chiesto aiuto a vari personaggi esperti delle aste giudiziarie piuttosto che delle questioni bancarie, con termini che non sapevo nemmeno in italiano cosa volessero dire. E poi ecco, quello che vorrei trasmettervi questa sera è proprio questa grande emozione che ha preso tutti e due, questo forte impatto emotivo di fronte a questa figura, perché è veramente una figura, al di là di quello che ha fatto, è una figura eccezionale, una figura che ha messo al di sopra di ogni cosa il bene comune. È una delle frasi, ci sono molte frasi chiave, parole chiave che ricorrono, che sono come un filo rosso che attraversa il libro, e una sua frase chiave era proprio agire insieme, ed è molto importante la parola insieme, alla fine di quello che sarà, come fulcro di quello che sarà, ecco, per la sua azione, per il cooperativismo, agire insieme per il bene comune. L'ha messo veramente al di sopra della sua stessa vita, perché più di una volta, lo vedremo, si è giocato la vita, l'ha messo al di sopra dei suoi affetti familiari. E la moglie per fortuna era d'accordo con lui, ma insomma ha portato un peso non indifferente, sia fisico che psicologico. L'ha messo soprattutto al di sopra di quello che lui, come prussiano doc, voi vedrete adesso gira continuamente la cosa e vedrete nella cartina che lui lavorava per la Prussia renana governata da Guglielmo I, e per lui, lo si dice ancora adesso, c'è l'espressione, sei un prussiano, per lui il senso della subordinazione, il senso del dovere, rispettare l'ordine costituito era una cosa importantissima. Beh, a quest'ordine lui ha anche disubbidito, quindi rischiando di suo. Ecco, quest'uomo veramente mi ha appassionato, questa figura, veramente molto. E c'è anche un'altra cosa che mi ha colpito di questo libro, questo essere, da un lato c'è questa atmosfera cupa, tremenda, proprio come una cappa che pesa, di miseria, di indigenza, di usura, di qualcosa che va al di là della disperazione, che è la rassegnazione, la pura rassegnazione di questa gente a un destino da cui non si sa più risollevare, non ha più voglia di risollevarsi. E dall'altra questa ventata impetuosissima di energia che quest'uomo ha, queste idee che continuamente gli vengono in mente, perché dice che deve rompere questa, deve sollevare questa cappa, deve rompere questa cortina di miseria, di sopruso, e deve scuotere questa gente, deve risvegliare in loro la voglia di fare qualcosa, di aiutarsi da soli, no? E ci riesce, dovunque vada, riesce a farlo. Ma vedete, adesso anche dire, noi lo chiamiamo Raiffeisenkassen, non le chiamiamo neanche casse di prestito o casse rurali o quel che è. Tutti conoscono le Raiffeisenkassen in Alto Adige e tutti conoscono Raiffeisen, ma chi conosce la vita? Chi conosce la fatica che quest'uomo ha fatto? Giovane, con energia, ma quanta energia ha avuto? A un certo punto la gente diceva, ah, è il sindaco che fa fiorire i soldi da terra, ma io secondo me faceva anche moltiplicare le ore del giorno, perché se scopriamo tutto quello che ha fatto, è veramente una cosa incredibile. Ecco, di questo vorrei parlando del libro, trasmettervi queste cose. Vi dico solo due informazioni per dovere di informazione sul libro, che è uscito nel 59, e poi parleremo un attimo di Franz Braumann. È uscito nel 59, ha avuto subito un grande successo e è stato tradotto in moltissime lingue, anche in giapponese. La prima edizione italiana non è stata così apprezzata dall'autore stesso, perché non era molto conforme al testo, ragion per cui ECRA, che è la casa editrice che si occupa di tutte le pubblicazioni sul cooperativismo, l'ha ripresa, ha ripreso una quinta edizione del 70, che è stata a sua volta ripresa dalle Deutsche Genossenschaftsverlag, che è l'equivalente dell'ECRA in lingua tedesca, no? Che è addirittura del 2013, quindi ECRA ha comprato nel 2013 i diritti, la traduzione è stata approvata dagli eredi di Braumann, i quali hanno voluto fare anche una piccola prefazione loro parlando del papà, di questo padre di cui, confesso, non avevo notizia, non sapevo che fosse anche uno scrittore, una persona nel mondo tedesco abbastanza conosciuta. Franz Braumann nasce in un piccolo paesino circa quasi un secolo dopo, nasce nel 1910, 82 anni per l'esattezza dopo Raiffeisen, a Hüttich, un piccolo paesino del Salisburghese, nelle zone dei laghi del Salisburghese. E hanno un piccolo podere, i suoi sono in 5 figli, lui non è neanche il maggiore e quindi come tale non prende, per la legge del maso chiuso, non eredita il maso, però è un ragazzo, quindi fa le elementari, poi fa la Zimmerlehre, studia da falegname, queste cose qui, però è un ragazzo intelligente, ecco, forse questo lo accomuna, la prima giovinezza, proprio la prima adolescenza lo accomuna a Raiffeisen, no? Perché è un ragazzo che legge, che si industria, che studia e prende il diploma magistrale subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventa direttore didattico a Klösterdorf, un piccolo paese sempre vicino al luogo dove è nato, nel Salisburghese, e lì vivrà per tutta la sua vita. Comincia a occuparsi di Raiffeisen in maniera estremamente precisa e minuziosa, perché è membro della locale Casa Raiffeisen, no? E la rinnova, si occupa anche di riedificare edifici pubblici, costruisce una statua, fa costruire una statua in onore di Raiffeisen e raccoglie un'infinità di materiale su di lui, tant'è che i figli, che hanno fondato un archivio proprio per una fondazione Braumann per diffondere e ripubblicare tutte le sue opere, dicono che hanno conservato ancora, che ci sono conservati plichi di lettere, lettere personali, lettere che scrive la fidanzata, ai figli, le varie delibere che ha fatto, tutti i verbali che lui ha scritto, faldoni interi di verbali che lui ha scritto quando era Flammersfeld, ha fondato, adesso lo vedremo. Insomma, ecco, tutte queste cose hanno fatto sì che probabilmente lui veramente fosse interessato a questa figura, e così è uscito il libro. Lui poi, quando è andato in pensione, ha cominciato a viaggiare molto, e dai viaggi, dicono gli eredi, ha ricavato molta materia per i suoi romanzi, romanzo saggio, io direi, più che romanzi. Si è interessato molto alle leggende popolari e difatti ci sono un sacco di libri che si chiamano Sagnreise durch Europas, Tiroler Sagnreise, Sagnreise durch Niederösterreich, tutte queste cose, no? E poi altri romanzi, eccetera. Si fa costruire, esattamente come farà negli ultimi anni di vita anche Raiffeisen, una bella casa a Klösterdorf, con un grande giardino, un grande frutteto, e nel 2003, mentre sta raccogliendo la frutta, le mele su una scala, cade e muore. E questa è la vita di Braumann, che però oggi, grazie alle sue opere, è abbastanza conosciuto, se non altro nel mondo tedesco. Vi dico due cose su Raiffeisen e poi parliamo definitivamente del libro. Spero di non annoiarvi, quando siete stufi me lo dite, perché se io parlo di una cosa che mi piace vado avanti a ruota libera e voi invece dormite. Allora, Raiffeisen nasce nel 1818, impero prussiano, quello che adesso lo vedete proprio nella cartina, è oggi la Pomerania renana. Nasce in un piccolo paesino a Hamm sul Sula, sul fiume Sieg, che è un paese molto molto in alto, molto più giù scorre il Reno, le valli del Reno più agiate, più ricche, eccetera. Sono 9 fratelli in famiglia. Il padre è stato una volta sindaco di Hamm. La famiglia è una famiglia molto conosciuta, perché o per parte di padre o per parte di madre la gente hanno avuto molti sindaci, e ancora adesso la gente si rivolge a loro, perché è una famiglia molto religiosa che aiuta volentieri gli altri. Però il padre, che poi non verrà mai più nominato dallo stesso Raiffeisen, in seguito a una malattia si dà all'alcol, e quindi devono anche destituirlo dal posto di sindaco, per cui questa madre si alleva da sola 9 figli. È chiaro che lui non poteva studiare tanto, va a fare la scuola elementare. Poi però la madre ha un fratello importante, che è un buon consigliere, un consigliere di corte, tenuto molto in considerazione, si chiama Lanzensdörfer, e questo gli consiglia di fare la scuola militare di Coblenza, almeno non deve pagare, il ragazzo è molto sveglio, è peccato non farlo studiare, e lì viene a contatto con una borghesia agiata, con classi sociali molto diverse dalle sue, amici che conserverà per tutta la vita. Conosce in una festa anche la ragazza che è la figlia del farmacista di Remagen, quindi ha un ruolo importante, e difatti poi lo sposerà. Ha una buona educazione religiosa. Perché? Perché il suo padrino di battesimo, che è un prete protestante, lo avvicina al pietismo, che è una corrente nel protestantesimo che sulla fine del 1700 spinge i suoi fedeli, i suoi adepti, a usare la fede in una maniera molto concreta, e cioè è un ora et labora per gli altri, cioè metti in pratica la tua fede, e questo ce l'hanno anche tutte le, ce l'ha il calvinismo, ce l'ha il luteranesimo, ce l'ha il protestantesimo, ma il pietismo in maniera particolare dice agisci per il tuo prossimo, e su questa base lui fonda tutta la sua, quella che considera una missione. Purtroppo un'altra parola chiave, deve ricominciare tutto dall'inizio. Molto spesso succederà nella sua vita che deve ricominciare tutto dall'inizio. Perché? Perché è un grave problema agli occhi, un inizio di distacco di retina che lo porterà alla cecità, e anche un problema di pressione sul bulbo oculare fa sì che lui non possa continuare la carriera militare. Allora si iscrive alla scuola per ispettori distrettuali a Coblenza, e diventerà un impiegato di questa scuola, e lì comincia il romanzo, nel senso che lui viene mandato, c'è un piccolo antefatto prima che vi racconto rapidissimamente, e poi lui viene mandato come sindaco proprio da Coblenza, nel suo primo paese dove avrà l'incarico. E il fatto è già sintomatico, si intitola Lo schiaffo, è un capitoletto del libro, ma insomma, la faccio corta. Lui è un ragazzino molto in gamba, ha 12 anni, pascola le pecore nel suo paese, e a un certo punto arriva la sorellina a dirgli: senti, c'è giù il tal contadino che dice che è venuto il mercante, perché la gente del luogo si vergogna a dire l'usuraio. In realtà sono gli usurai che girano a ritirare gli interessi. Questo ragazzino va giù, la mamma è molto spaventata, dice: per carità, non metterti contro König, si chiama questo usuraio, non metterti contro di lui, perché tutti siamo in mano agli usurai qui l'usura regna sovrana, no? E Ma lui decide che non, cioè questo usuraio, che già ha interessi spaventosi, però addirittura gli sta facendo pagare gli interessi di 3 mesi, glieli sta facendo pagare in 1 mese. Allora dice: no, tu andiamo, questo deve mostrarti il titolo di credito e dobbiamo vedrai che abbiamo ragione noi. Va all'osteria, questo dice: cosa vuoi, moccioso? Gli molla uno sberlone e lì, altra parola chiave, lui dice: un giorno tutti i König come lui si ricorderanno di me. E in effetti una delle cose che lui riesce a fare è a vincere non solo la miseria, anche l'usura, no? Il titolo è molto adeguato, no? Un uomo vince la miseria. E comincia con 15 anni dopo, lui viene mandato in questo piccolo paesino che si chiama Weyerbusch, nel Westerwald. Il Westerwald è una regione sempre molto sopra il Reno, e la gente che abita nelle campagne più sotto, nei villaggi, nelle cittadine più a sud, verso il Reno, la chiama il paese della povera gente. È veramente un paese desolato, è un paese afflitto da miseria endemica. In più sono gli anni tra il 45 e il 47, non terribili, in cui la carestia regna in tutta la Germania, ma soprattutto nei posti più disagiati, è chiaro. E lui si accorge di 5 cose che proprio gli stanno qui, che dice che non, alle quali deve porre rimedio subito. La prima cosa che vede: torme di bambini mendicanti che vanno in giro scalzi, alcuni incappucciati perché magari sono i figli delle persone che si vergognano di far vedere che mandano i propri figli a mendicare. Altri sono bambini lasciati negli orfanotrofi, con gli orfanotrofi che speculano sul far mendicare i bambini. Altri sono bambini dati in affido a famiglie che addirittura a loro volta speculano, ma speculano perché non hanno di che cibarsi, ovvio. E questa è una cosa. L'altra cosa è l'usura, chiaramente. Un'altra cosa ancora è la scarsità di pane. Non c'è più pane. Allora cosa succede? C'è un unico forno a parecchi chilometri di distanza, Altenkirch, il distretto più importante. La gente che può pagare va lì, ma il fornaio furbo fa usura anche quello, nel senso che di ora in ora il pane aumenta di prezzo. Non solo, ma la gente che può pagare va lì e fa una bella scorta di pane. La gente che può pagare poco alla fine non ce l'ha più. E allora lì il suo primo atto è fare un'ordinanza per cui la polizia blocca e gestisce la vendita del pane, che però è una misura così, non è colpire il male. Un'altra sua frase tipica è colpire il male alla radice, cioè non tamponarlo, ma cercare di capire che origine ha questo male. E un'altra cosa sono le strade sono totalmente impraticabili, e questo anche per un minimo di commercio non è possibile, la strada deve rimanere sgombra, no? E poi la scuola è un altro problema molto grave. Un maestro vi ha appena raccontato che una bambina che ha fatto chilometri sotto la neve, intirizzita, bagnata fradicia, i piedi ghiacciati, eccetera, è arrivata a scuola, la scuola è fredda, perde acqua dal tetto, eccetera, e il giorno dopo era a casa malata, gli è venuta la polmonite, è morta. E allora, oltre a questa prima azione di regolamentare la vendita del pane, la cosa che lui fa è costruire una nuova scuola. Come fa a costruirla senza soldi? Lui fa lunghe passeggiate nei boschi e a mano che avanza ha lunghe gambe, larghi passi, e ogni passo è un'idea che gli frulla in testa. Scopre che c'è una vecchia miniera, una vecchia cava abbandonata, e dice: ma la cava ci dà il materiale per costruire la scuola. Poi c'è il bosco, ci sono le travi per costruire la scuola. E allora comincia a chiedere ai sovrintendenti che chiedano a ogni cittadino che dia 1 ora, 2 ore a disposizione, quello che vuole, quello che può, per costruire questa scuola che servirà ai loro figli e servirà a tutti. E difatti la scuola viene costruita, c'è una grande festa, eccetera. Però i problemi sono tanti, resta l'usura. E allora anche lì c'è un caso di una povera donna, il cui marito si chiama Penkoff, il cui podere con attrezzi, con bestie, scusate, con attrezzi, campi, bestie, eccetera, tutto va messo all'asta perché loro sono indebitati fino al collo e l'usuraio non vuole rimandare oltre e c'è quest'asta. Tutti hanno paura, lui stesso va da questo usuraio, si chiama Birnbaum, chiede di, si appella alla sua coscienza e viene deriso, buttato fuori di casa e niente, va assieme al pastore presso cui ha trovato alloggio, che si chiama Müller, il pastore Müller, va insieme a guardare, perché non può fare niente, lì è una sconfitta perché non c'è niente da fare. L'usuraio è l'unico che si presenta all'asta e con 300 talleri si porta via una cosa che ne vale 10 volte tanto, e questa è la situazione. Nel frattempo rimangono decisamente senza più pane e lui che cosa fa? Forma la sua prima associazione, l'Associazione per il Pane, in cui raccoglie i sovrintendenti e riesce a convincere, devo dire che è un oratore veramente con grande carisma, credo bene che ci siamo emozionati a conoscerlo, perché non so oggi chi sarebbe capace di fare sì che 60 persone diano i talleri di cui al momento non hanno bisogno a garanzia del fatto che si possa comprare della farina e si possano avere dei pagherò in cambio, cioè la gente pagherà questa farina quando potrà pagarla, quando farà un raccolto degno, quando saranno finiti i raccolti magri, la carestia, le condizioni atmosferiche pesanti, eccetera. Comunque raccoglie, lui dà il primo obolo e lì la gente, sa, il gesto conta più di qualunque parola, tutti quanti danno il loro obolo con questi soldi e Raiffeisen stesso va degli intermediari di queste chiatte che arrivano sul Reno e che portano granaglie dalla Russia, dalla Polonia, eccetera, e poi tornano cariche di manufatti, carbone, perché è vicino alla Ruhr, e insomma queste cose. E lì c'è divertente questa cosa, perché insomma, c'è un sodalizio senza scopo di lucro che compra, c'è l'intermediario che dice: ma come, io non sapevo che il sindaco commerciasse in granaglie, però insomma alla fine compra compra la farina all'inizio e arriva questa farina, eccetera. E la cosa va avanti, l'Associazione per il Pane, adesso non la faccio così lunga, alla fine compra in grande quantità e allora, ecco, grazie, allora non sono più, vengono restituiti danari alle persone, però adesso le persone danno qualcosa in garanzia alla banca, qualunque cosa in garanzia. La banca impresta i soldi e l'Associazione per il Pane compra le granaglie, va dal solito fornaio di Altenkirchen, il quale si compra le granaglie, macina il grano, la segale, quell'orzo, quello che c'è, e però non vuole abbassare il costo del pane. E il sindaco, che non accetta sconfitte, dice: va bene, adesso ci penso io. Cammina per tornare a Weyerbusch, vede un campo lì non coltivato e dice: benissimo, il forno ce lo costruiamo noi. E così abbiamo risolto anche il problema del forno. Quindi lui a Weyerbusch ha sistemato le strade, perché comincia a costruire la strada che va verso il Reno, che scende sempre più a valle, ha sistemato l'usura, non l'ha ancora sistemata, la sistemerà. Ha sistemato la scuola, si è sposato, nel frattempo ha avuto una figlia e anche una seconda figlia, aveva una grande energia, questo uomo, l'ho detto che aveva una grandissima energia, e questa Associazione per il Pane continua ad andare avanti per molti anni, però non più con i soldi dati in prestito, ma con i soldi dati in prestito, con i soldi dati in prestito dai membri dell'associazione, bensì i soldi dati in prestito dalla banca. Si cambia ancora un po', perché a un certo punto non sono nemmeno più i membri che danno la garanzia. Che cos'è che dà la garanzia? Pensano che anche tagliare il bosco può fruttare. E allora cominciano a tagliare il bosco e a portare i grandi alberi giù nella Valle del Reno, dove ci sono le grandi i grandi cantieri navali, che costruiscono navi, chiatte per trasportare navi mercantili, eccetera. E questa è Weyerbusch, la prima cosa. Dunque, alcune cose le ha risolte bene, direi, no? Nell'aprile del 48 lo trasferiscono a Flammersfeld, no? La sua funzione in fondo a Weyerbusch era finita, o quasi, resta l'usura, però insomma, ecco, la gente era rinata, il paese era tornato a vivere, a sperare, a gestirsi un pochino di più da solo. Flammersfeld è ancora un po' più grande, ha 33 comuni, ed è più vicino a Reno e a Neustadt, che è il capoluogo. C'è una cosa molto curiosa: lui di nuovo va a Flammersfeld in incognito, come era andato in incognito a Weyerbusch, e chiede dove fosse la casa del sindaco, no? E al sovrintendente del luogo. Si chiamano sovrintendenti quelli che gestiscono la città in assenza di sindaco, no? Si chiamavano. E questo gli dice: ma come il sindaco, a casa del sindaco? No, ma guardi che noi abbiamo un antico privilegio e nessuno ce lo toglie. Noi il sindaco ce lo votiamo da noi, ce lo eleggiamo noi, non c'è nessuno che ci possa dare un sindaco. Evidentemente non aveva letto il dispaccio di Coblenza, anche allora evidentemente la burocrazia era un po' deficitaria, strano, perché in Prussia pensavo che dovesse funzionare. Comunque, una volta che si è fatto riconoscere, è chiaro che tutti lo eleggono, non solo per quello che ha già fatto a Weyerbusch, ma per il fatto che continuerà la strada. Lui promette di continuare la strada fino giù al Reno. E Flammersfeld è una cittadina mercantile, e quindi è molto importante avere una strada che funzioni, no? Lì c'è tutta la descrizione. Adesso il libro è bello perché sembra di leggere un romanzo dell'Ottocento, no? Perché c'è tutta questa descrizione di quando arriva, no? Di quando arriva il grano, di quando lui fa tutti questi viaggi pazzeschi, prima in carrozza, poi col postale, poi sale sulla chiatta che lo porta fino alla città del Reno, dove si approvvigiona, insomma, tutte queste cose. A Flammersfeld la moglie ha la terza figlia ed è abbastanza provata, abbastanza stanca. Pensa che lì ci sia meno miseria. In realtà no, ha solo qualche altra forma. C'è in compenso una grande usura. Allora, assieme a questo pastore Müller, che lo appoggerà molto nel suo lavoro, che cosa fa? Dice: adesso bisognerà combattere anche l'usura in qualche maniera, e vanno a tutte le aste e cercano di scoprire qual è la causa. Ti ricordate, vi dicevo una frase chiave, no? Colpire il male alla radice, no? Scoprono che la prima causa dell'indebitamento dei contadini è una cosa molto strana, è il fatto che l'usuraio dia in affitto le proprie bestie nelle stalle dei contadini. Uno dice: beh, i contadini dovrebbero guadagnarci. No, perché certe volte le bestie sono vecchie, ammalate, la mucca non dà latte, non riesce a fare i vitelli, la capra scappa, il foraggio costa più di quello che rende. Insomma, alla fine pagare l'affitto per queste bestie, alla fine del mese l'usuraio passa a riscuotere e il contadino non ha i soldi, e allora l'usuraio gli dice: ah beh, ti do un'altra bestia, così guadagni, e così va avanti, e così nasce l'asta, no? E il contadino perde le bestie, il podere, la casa, tutto quanto. Allora loro cominciano a dire: va bene, abbiamo fondato l'associazione per il pane, è andata bene, fondiamo l'associazione per l'assistenza. quella non è questione di pochi talleri, perché le bestie costano parecchio. Allora ci si rivolge alla banca, di nuovo lui riesce a trovare 60 membri che danno in garanzia tutto quello che possono, e la banca fornisce i soldi e, senza scopo di lucro, la banca riceve i soldi di ritorno con gli interessi, e i 60 membri riprendono le loro garanzie, ma il tutto è sempre senza scopo di lucro. Prosegue i lavori della strada, fa mille altre cose, ma insomma adesso qui non posso tirarla troppo per le lunghe. Comunque questa associazione per l'assistenza nasce nel 49 e gli usurai, qui c'è un pezzo che vorrei leggervi perché è un pezzo che è stato scritto da Bismarck a proposito dell'usura. Gli usurai si scopre che chiedevano anche il 120%, non lamentiamoci oggi delle nostre banche, chiedevano anche il 120% di interessi. Pensate che è una roba folle, no? Bismarck scrive: di una simile usura nei confronti di altri ceti sociali che non siano i contadini non si era ancora mai sentito, aveva detto Bismarck, e Raiffeisen scopriva ogni giorno che quella descrizione era tagliata su misura anche per la sua realtà locale. Cioè, lo stesso Bismarck si occupa di questo problema, no? Però è così. Si fa terra bruciata con questa associazione che nasce nel 49 per l'assistenza ai contadini per l'acquisto del bestiame. Vengono comprate le bestie nuove, vengono comprate dall'usuraio a un prezzo giusto le bestie che lui ha dato in affitto. Gli usurai capiscono che è tempo di, come si dice da noi, menare le tolle, insomma di andarsene altrove, gli fanno terra bruciata intorno. E questo è il suo lavoro a Flammersfeld. In due anni ha risolto una situazione. Passiamo a Hedesdorf. Nell'agosto del 52 diventa sindaco di Hedesdorf. Hedesdorf è ancora un pochino più in giù, un pochino più verso il Reno, è una cittadina operaia perché tutti lavorano nelle vicine fabbriche di Neuwied. Di Flammersfeld mi sono dimenticata una cosa importante da dirvi: c'è un incontro con un barone di Colonia che arriva da lui e dice, parla della rivoluzione industriale, parla dell'Inghilterra, parla degli altri paesi che ormai si sono adattati alle grandi industrie, e dice, probabilmente anche ha ragione se non ci fosse l'associativismo, che i piccoli contadini con i piccoli poderi che si occupano da soli delle loro cose sono destinati a fallire, a sparire, perché non ce la fanno a resistere, e lui si offre di comprare tutte le terre intorno a Flammersfeld perché su quelle vuole costruire le sue fabbriche di manifatture, e dice: guarda, io i contadini li pago il prezzo giusto e in più li farò lavorare nelle mie fabbriche. E lì c'è un grosso tanti dubbi, perché in un primo momento Raiffeisen lo caccia perché vede scene apocalittiche, cioè questi uomini privati anche di quel poco che hanno, anche di quel pezzetto di terra, che lavorano come schiavi nelle fabbriche con le macchine, cioè c'è un'immagine un po' apocalittica. E poi però si pente, perché dice: mamma mia, ma forse aveva ragione lui, qui c'è ancora tanta miseria, ma come si fa? E difatti crea qualche malcontento. In effetti comincia a serpeggiare l'idea che le persone si devono aiutare da sole, cioè le si deve aiutare, ma le si deve educare a aiutarsi da sole, no? E l'idea, ecco come prende piede poi il sistema Raiffeisen. Non è così, uno dice: ma il sistema Raiffeisen ci ha messo tutta una vita di lavoro, e che lavoro per arrivare al dunque, no? Per arrivare a renderlo effettivo come oggi è, come lo conosciamo, no? Cioè io non lo conoscevo, l'ho conosciuto un po' grazie a questo. Dunque, viene mandato a Hedesdorf, che è un paese di operai, no? E lì la moglie, di nuovo, vabbè, insomma, nel frattempo ha avuto anche il quarto figlio, che è morto dopo un paio di settimane, sta sempre peggio, povera donna, è una carissima persona che lo appoggia in pieno, però è molto stanca, molto provata, e c'è una cosa che gli fa scaturire un nuovo, costruisce subito un nuovo municipio, va bene, anche perché anche lì neanche sapevano che sarebbe arrivato il sindaco, quindi lui non ha né casa né ufficio né niente. Però a parte questo, succede che una notte, è arrivato da poco, gli arriva un ladro in casa, e la moglie di sopra si spaventa tantissimo, ha un infarto, quasi ci lascia le penne, e lui invece sotto è lì che ha una grande colluttazione con questo ladro, e alla fine riesce ad avere la meglio, perché lui ha anche fatto la scuola militare da giovane, è ancora giovanissimo, quindi... Però riesce a immobilizzarlo, chiama la polizia, questo poveraccio gli si butta ai piedi, disperato, dice ma no, ma io non posso, se lei adesso mi manda in galera, io quando esco dalla galera cosa faccio? Lei la sua vita continua, ma la mia è finita, io volevo rubare solo per fame, insomma. E lui dice no, la giustizia non possiamo disattenderla, lei fa... sconta la sua pena, le assicuro che quando torna lei viene da me e io un lavoro per lei ce l'avrò. E così in effetti succede. E a lui viene in mente un altro progetto, non è che poteva rimanere senza fare qualcosa, no? Dopo l'assistenza per il pane, in due fasi, dopo l'associazione per l'assistenza, nasce l'associazione per la beneficenza. L'associazione per la beneficenza, perché lui si domanda, chi aiuta? Qui lavorano, qui non c'è l'usura, qui, però cioè, la miseria c'è lo stesso. Chi aiuta? Le vedove, gli orfani, i poveretti che non hanno lavoro, quelli che escono dalla prigione, qui nessuno dà lavoro, i poveri contadini che ancora ci sono e che fanno fatica a mandare avanti le loro cose. E quindi nasce, sulla stessa modalità dell'associazione per l'assistenza, nasce l'associazione per la beneficenza, solo con diversi obiettivi. E lì è quando dice Brauman che lui ha tutti questi faldoni pazzeschi, tutti pieni dei suoi verbali, perché lui gli scrive ogni cosa viene rendicontata, non, terribile il lavoro che fa quest'uomo, io non so nelle 24 ore come faceva, e comincia a dire, non so, ci sono questi orfani che devono essere, che vengono adottati da questa famiglia, allora a questa famiglia diamo tot talleri per il loro mantenimento, tot per il vestiario, tot per l'istruzione. C'è una giovane ragazzina di 13 anni che è stata molestata dal padre, bisogna allontanarla, allora il sindaco si preoccupa di trovare una famiglia per bene che la rimetta sulla giusta via, allora questa famiglia si daranno i talleri per la sua istruzione, i talleri per i vestiti, insomma centinaia e centinaia di questi piccoli verbali. Però che cosa succede? Comincia a salire un po' il malcontento, perché anche questi membri sì, sanno che i soldi li avranno di ritorno, ma insomma prestarli per averli di ritorno a lunga scadenza senza un minimo di interesse per se stesso non funziona molto, e questa è la grande sconfitta di Raiffeisen. Lui aveva pensato che non dovesse mai esserci uno scopo di lucro, che la beneficenza dovesse essere fatta avendo poi di ritorno i soldi, ma senza una lira di interesse. E lì invece comincia, lui capisce, e i tempi ormai sono maturi, e capisce che deve creare un sodalizio. Nel 64, adesso guardo perché magari sbaglio le date e sono importanti, nel 64 lui capisce che non può più bastare il prestare soldi, che bisogna che questo diventi un sodalizio basato sull'autoaiuto, quello che aveva capito dall'inizio, che la gente si deve aiutare da sola. Ma qui fa un passo avanti, un ulteriore passo avanti, che è poi il cardine del sistema Raiffeisen. Qui inizia il sistema Raiffeisen, cioè nel 64 nasce l'associazione Cassa di Risparmio e di Prestito, secondo il sistema Raiffeisen proprio. E che cosa dice questa associazione? Dice che chiunque voglia prendere in prestito del denaro deve essere anche membro di questa associazione e deve garantire con quel poco che ha. Uno ha una capra, mette in garanzia una capra, uno ha un podere, mette in garanzia il podere, poi dopo ognuno ricaverà in base a quello che ha dato in garanzia, cioè viene restituito anche con degli interessi. È quello che fanno oggi le banche. E sì, lui credeva molto nel bene comune senza scopi di lucro. In realtà gli uomini sono un po' diversi, e già molto se prestano e garanzia per qualcuno, anzi è già tanto. E così questa idea del bene comune è finita. Le sue associazioni, che hanno comunque generato ricchezza, che hanno vinto la, non ricchezza, ma che comunque hanno vinto la miseria, però adesso cambiano proprio sistema, no? Diventano delle vere e proprie banche, diventano delle vere e proprie, però lui mantiene questa associazione, non toglie il nome associazione. Perché non lo toglie? Associazione Cassa di Risparmio e di Prestito, poteva chiamarla come la chiamiamo adesso, Cassa di Risparmio e di Prestito. No, la chiama associazione perché? Perché vuole ancora una volta evidenziare che è un sodalizio di uomini, che sono le persone che fanno questa azione, non è un istituto, non è un ente così, non, no? È un, sono sempre gli uomini che comunque lavorano per il bene comune, avranno anche, ricaveranno anche degli interessi, va bene, ma in fondo si mettono insieme per il bene comune, ed è giusto che ognuno sia anche responsabile delle sue azioni. Se uno chiede dei soldi è giusto che sia anche membro di questa associazione e che garantisca con quello che può garantire. Uno già ha un anello e garantisce con l'anello, voglio dire, no? E così finisce questa cosa. C'è un periodo terribile per lui dopo di questo, un periodo veramente tragico. Scoppia una grande epidemia di tifo nel paese vicino e lui subito pensa a che cosa succede alle persone che hanno in casa un ammalato o addirittura qualcuno che è morto e che non possono muoversi dalla casa perché devono rimanere in quarantena per evitare il contagio, e dice: e questa gente come, cosa fa? Muore di fame? Come si nutre? E allora cerca dei volontari, ovviamente trova una sola persona in tutti i 33 che in tutte le parrocchie. Hedesdorf ha 5 parrocchie, mi sono dimenticata di dirvelo, questo è già una cosa diversa, 5 parrocchie, 14 comuni, 9.000 abitanti, no? E lui trova solo la vecchia maestra del paese, quindi assieme lui, quindi a rischio della sua vita, assieme alla maestra del paese, vanno in giro casa per casa dove ci sono stati degli ammalati, quindi potendo contagiarsi, a portare i viveri, i mezzi di sussistenza, le medicine, insomma quello, tutto quello di cui hanno bisogno queste persone che non si possono muovere di casa. Nel frattempo la moglie ha messo al mondo anche il quinto figlio, e però è dai suoi a Remagen perché è talmente malata di cuore, talmente stanca che non ce la fa più a riprendersi. Lui stesso si ammala, pensano che sia malato di tifo, in realtà è una febbre nervosa molto forte, rimane per 2 settimane in ospedale, quando torna a casa è quasi cieco, lo aiuta la figlia maggiore, che gli deve mettere la mano proprio nel posto dove deve firmare, perché non ha solo nebbia davanti agli occhi. E a completare l'opera gli arriva un biglietto dal padre di Emily, della moglie, che la moglie ha avuto un ennesimo infarto ed è morta, e per lui è veramente la fine. Però nel frattempo succede che ci sono molte associazioni, adesso mi sono persa i fogli, aspettate un attimo, scusate. Ci sono molte associazioni, molti paesi, molte parrocchie, molti sovrintendenti, molte persone che vanno a chiedergli se possono formare delle casse di prestito secondo il modello e lo statuto che lui ha redatto, e questo gli dà anche molta soddisfazione, insomma vuol dire che il clima è quello giusto, che il terreno ormai è fertile per questo nuovo genere di associazionismo, di corporativismo, no? Crescono in giro nella Turingia, nell'Alsazia, nella zona della Ar, nelle molte zone del Basso Reno, le case di prestito secondo il suo modello. Nel frattempo lui prima ha dato le dimissioni, poi le ha ritirate perché si è accorto che in fondo aveva fatto troppo pochi anni, grandi onorificenze, ma pensione molto povera, insufficiente per mantenere i figli, e se non che arriva la lettera da Coblenza che lui è messo a riposo, anche lì grandi onorificenze, grande tutto, grandi ringraziamenti, e però una pensione minima, ragione per cui lui deve rimettersi a lavorare, e da benefattore che era diventa imprenditore, ma come imprenditore all'inizio non ha una grande fortuna, prende una piccola fabbrica rileva una piccola fabbrica di sigari, che però non ha una grande fortuna, e invece poi rileva un commercio di vini che va molto bene, comincia a guadagnare, comincia a non avere più neanche problemi economici, per cui riesce anche a vendere questa fallimentare fabbrica di sigari. E la figlia Amélie, che lo aiuta moltissimo in queste cose, è tutta contenta perché nel frattempo si è fidanzata, vorrebbe sposarsi, di nascosto dal papà, e allora dice: ah, che bello, adesso finalmente vi lascerai libera. E il papà però dice: no, mi servi ancora, aspetta ancora un po' finché cresce la tua sorella più piccola, che almeno mi aiuta, no? E lei rinuncia a sposarsi. Amélie lo seguirà per tutta la vita, rinunciando ad una vita sua. E quando il padre gli chiede: ma ti è dispiaciuto? No, sono stata contenta, era la mia vita, era giusto sacrificarmi per te come tu ti sei sacrificato per gli altri. In effetti, dopo pochi mesi, quello che doveva essere il futuro sposo si sposa con un'altra, e buonanotte. Allora si trasferiscono a Neuwied, e lui comincia a aiutare la gente che vuole fare tutte queste nuove forme di case di prestito. Non solo, ma per esempio come commerciante di vini si occupa dei vignaioli, e ci mancava che non si occupasse di qualcos'altro. No, veramente è una persona pazzesca. Questi vignaioli poverini sono quelli che ci guadagnano di meno, no? Perché nel passaggio, nei vari passaggi fino al venditore del vino, loro sono quelli che hanno meno soldi di tutti. E allora lui dice: ma scusate, ma fatevelo e vendetevelo questo vino. E così forma l'associazione per i vignaioli. La stessa cosa per quelli che vendono il latte alle grandi industrie lattiere, eccetera, no? I caseifici, eccetera, dice: ma come? E forma l'associazione per produttori di latte. Insomma, continua a andare avanti con questa forma di associazionismo basato di volta in volta su diverse forme di prestito, di garanzia, eccetera. Intanto fioriscono i modelli sistema Raiffeisen, no? Fioriscono dappertutto le casse di prestito, eccetera. E lui continua ad andare in giro a fare viaggi pazzeschi, perché in carrozza, in postale, insomma, è faticosa la vita. Finché questo maestro Lauf, che lo accompagna in queste sue imprese, gli dice: ma scusa, tu parli a 10, scrivi un libro che così parli a 10.000 e fai meno fatica. E così esce finalmente il libro. Quindi nel 66, 2 anni dopo che è uscito il libro sull'associazione casse di prestito, credito e prestito, esce il libro e un anno dopo l'opera concepita quel giorno uscì con il dettagliato titolo Le associazioni casse di prestito come mezzo, scusate non ci vedo, come mezzo per sopperire alle necessità della popolazione rurale, così come anche degli artigiani e dei lavoratori delle città. Il libro ripercorreva tutto ciò che aveva fatto Raiffeisen nell'arco della sua vita: l'inverno di fame 46-47, la vendita all'asta del podere Renkhof a Wüstenrad, la storia del detenuto, sì, poi dopo il ladro torna a casa sua e lui gli trova il posto, chiaro, ma insomma, l'assemblea delle associazioni per la beneficenza, alla quale aveva rivolto le seguenti parole, che sono parole tratte dalla Bibbia: allora andrò io stesso per le strade e ad ogni angolo raccoglierò intorno a me i poveri, i ciechi e gli storpi. Da queste parole, dette così impulsivamente, si era sviluppata l'idea del sodalizio cooperativo basato sull'autoaiuto. Mantiene la parola associazione, ve l'ho detto, proprio per dare l'idea che è ancora sempre l'uomo a fare questa cosa. Questo libro viene tradotto in molte lingue e in italiano viene tradotto da ECRA, per l'appunto, a 100 anni dalla sua uscita, per festeggiare il centenario della sua uscita, ed è l'ottava ristampa del libro, che continua ancora oggi a essere ristampato. Va avanti la sua vita. A 50 anni conosce una signora che non ha impegni, è vedova, e si sposa. Pensate, uno così, io penso, ha 100 anni questo, per tutto quello che ha fatto, no, ne ha solo 50, è nel pieno delle sue energie, però in realtà è quasi cieco, non è, riceve un sacco di... Per anche dopo l'uscita del libro, eccetera, riceve, come sempre quando uno fa qualcosa, ci sono i pro e i contro, quindi ci sono Tillman, non so, alcuni consiglieri di corte che sono favorevoli a lui, altri che scrivono contro perché hanno fondato altri generi di associazione, insomma le solite cose, no? Quando uno fa è sempre soggetto a critiche, è meglio non fare niente, così non ti criticano, cioè è facile la cosa, no? E forma tutte queste associazioni, eccetera. Cessa anche l'attività di commerciante di vini e fonda una piccola tipografia, Neuwied. Sì, le associazioni le abbiamo detto. E come riesce a completare questo sistema Raiffeisen? Decide che dovrebbe esserci tra le varie casse di prestito una specie di cassa centrale, una specie di banca di compensazione. Lì ho dovuto farmi spiegare cosa volesse dire in italiano banca di compensazione, perché non lo sapevo. Allora succede che una banca può smistare i fondi, non so, una cassa di credito degli artigiani ha troppi soldi e una cassa invece di credito degli allevatori ce ne ha troppo pochi, questa banca di compensazione passa il denaro da una cassa all'altra. Questa nasce nel 74, questa nasce nel, tra il 69 e il 72, finalmente nel 74 nasce la Banca Centrale Tedesca dell'Agricoltura, banca che c'è ancora oggi, e nasce a Neuwied, dove lui si è stabilito. Anche qui polemiche da una parte e dall'altra, però le associazioni, le casse di prestito fioriscono ormai in tutto il mondo. L'imperatore e addirittura la cassa di prestito della Renania istituisce una federazione apposta anche per la consulenza legale, offre assistenza, patrocinio gratuito a chi ha difficoltà a capire qualcosa, a muoversi nella burocrazia, a avere rapporti con le autorità, con la legge, eccetera, no? Viene ricevuto dall'imperatore di Prussia, dall'imperatore Guglielmo di Prussia, che fa una larga donazione, dona 30.000 talleri al fondo per la cassa di prestito centrale dell'agricoltura, la cassa tedesca di prestito centrale dell'agricoltura. Il suo sistema viene diffuso in tutta Europa e lui muore a Neuwied tranquillamente, finalmente si riposa nel 1888, aveva appena compiuto 70 anni. No, un'ultima cosa vi voglio dire, mi è piaciuto questo libro perché ripercorre anche della storia, qua e là entra anche la storia, non so, per esempio quando lui è a Flammersfeld arrivano dal Reno, dalle città più agiate, più acculturate del basso, della valle del Reno, le notizie che nascono grandi tafferugli, che i borghesi e gli studenti universitari cominciano a agitarsi contro il governo centrale, cominciano a volere una confederazione degli stati, quella che poi nascerà. Si ripercorre la rivoluzione culturale, si ripercorrono, ecco, Guglielmo di Prussia, cioè c'è anche tanta storia dentro fra le righe. E basta, io ho finito. Io spero che non vi siate addormentati, insomma.